In linea con noi abbiamo l'architetto Bertamè. Buongiorno architetto. Buongiorno a voi. Perché mi chiederete un architetto? Perché io volevo dedicare alcuni minuti della trasmissione al Feng Shui, giusto architetto? Ci esatto. sono 20, tantissimi modi di pronunciarlo. Comunque questa disciplina, che anche se molto lontana da noi, aiuta a vivere, concepire lo spazio in modo armonico ed equilibrato. I tempi a disposizione sono davvero pochi, abbiamo un paio di minuti, ma chiederò al dottor, all'architetto Bertamè se mi dedica anche un po' di tempo per fare una un'intervista più approfondita che mettiamo nel sito. Vi siete accorti che vi mettiamo sempre un po' di chicchette. Allora, possiamo, architetto, dare proprio un paio di consigli per i nostri ascoltatori, per rubare al Feng Shui qualche cosa che possiamo mettere in pratica, anche se il nostro approccio occidentale all'ambiente, alla casa, è molto lontano rispetto a quello orientale? Mi viene in mente ad esempio il suono, che per il Feng Shui è molto importante. La musica e il suono è una delle espressioni dell'uomo, ma soprattutto il suono è un elemento di grande equilibrio o di grande perturbazione. Pensate alla differenza di alcuni di noi che vivono sentendo musica rock o sentendo musica classica. Ognuno di noi in effetti è diverso, e quindi la relazione, il gioco dell'equilibrio di questa trasmissione, io lo chiamo gioco naturalmente in senso lato, è proprio costruire qualcosa che ci porta armonia all'interno, perché l'aspetto fondamentale è che l'ambiente è costruito da noi, ma noi molto spesso lo riceviamo. Quando entriamo in una casa non è che l'abbiamo costruita totalmente noi, ci è stata fatta a nostra misura o meno, e noi dobbiamo equilibrarla, cioè dobbiamo farla nostra. Allora, la musica è uno degli elementi che ci permette di mantenere un certo equilibrio, ma l'aspetto fondamentale di una casa è come si relaziona con noi, come si relaziona soprattutto con la nostra parte più profonda, più intima. La nostra casa è simbolicamente anche l'aspetto spirituale di noi, e questo ce lo dimentichiamo spesso, perché noi lo viviamo soltanto come un oggetto di consumo. Mentre invece è qualcosa che ci entra dentro e con cui noi comunichiamo. E allora l'architetto Bertamè, le ruberò un po' di tempo perché faremo un approfondimento sul nostro sito. Intanto vi devo salutare con un po' di dispiacere, ma si apre un weekend, pensiamoci, andiamo alla ricerca dell'equilibrio. Grazie al dottor Corradin per essere stato con noi, per averci aiutato a fare questo viaggio alla ricerca del centro. Architetto Bertamè, noi ci sentiamo presto per un approfondimento sul Feng Shui. Io vi aspetto lunedì. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.